Vino. Inzuppava e ammollava mollica pallottolata di pane. Senape. Un momento. Formaggio molliccio. Buon vino questo. Lo gusto meglio, perché non ho sete. Per via del bagno, naturalmente. Appena un boccone o due. Poi verso le 6 posso. Sei. Sei. Il tempo sarà passato allora. Lei. Mite fuoco di vino gli scaldava le vene. Ne aveva proprio bisogno. Mi sentivo così giù di corda. I suoi occhi disaffamati guardavano scaffali di barattoli, sardine, chele di aragoste sgargianti. Che cose strane si sceglie la gente per mangiare. Dai gusci, le telline con uno spillo. Di sugli alberi. Lumache della terra mangiano i francesi. Dal mare con l'esca sull'amo. Stupidi pesci, non imparano nulla in 1000 anni. Se non lo sai che è pericoloso metter qualcosa in bocca. Bacche velenose. Johnny Magoris. La rotondità ti sembra buona. Il colore sgargiante ti dà l'allarme. Uno l'ha detto a un altro e così via. Prima provare con il cane, guidato dal naso o dall'occhio. Frutto della tentazione. Coni gelati. Panna. Istinto. Aranceti, per esempio, hanno bisogno di irrigazione artificiale. Bleibe treu Strasse. Sì, ma come spiega le ostriche? Brutte a vedersi come un grumo di catarro, gusci sudici, e ce ne vuole ad aprirli. Chi le ha scoperte? Rifiuti, scarichi di fogna, ecco di cosa si nutrono. Champagne e ostriche del Red Bank. Influenza sugli organi. Afrodis. Lui era sul Red Bank stamane. Era lui, ostrica, pesce vecchio a tavola. Forse carne giovane a letto. Lui. No. Giugno non ha R né ostrica. E c'è della gente che gli piace la roba andata male. Selvaggina frolla, lepre alla cacciatora. Prima acchiappatela. I cinesi mangiano uova di 50 anni, azzurre e verdi di nuovo. Pranzo di 30 portate. Ogni piatto innocuo in sé, dentro potrebbe mescolarsi. Idea per un giallo con avvelenamento. Era l'arciduca Leopoldo? No, sì, o era Otto, uno di quegli Asburgo. Chi era che aveva l'abitudine di mangiarsi la forfora della propria testa? Colazione più a buon mercato che ci sia. Naturalmente, aristocratici. E gli altri copiano per essere alla moda. Milli anche, olio di rocca e farina. La pasta cruda piace anche a me. Metà delle ostriche che pescano le ributtano in mare per tenere alti prezzi. A poco prezzo nessuno le comprerebbe. Caviale. Fare il grande. Vino del Reno in bicchieri verdi. Formidabile spanciata. Lady tal dei tali. Petto incipriato. Perle. L'élite. Crème de la crème. Vogliono piatti speciali per dare a intendere ed essere. L'eremita con un piatto di lenticchie spunta ai pungoli della carne. Fammi vedere come mangi e ti dirò chi sei. Storione reale, il primo sceriffo, Coffi, il macellaio, diritto di caccia nella foresta di Sua Eccellenza. Mandargli indietro mezza vacca, tutto quel ben di Dio che vidi giù nella cucina del presidente della corte. Lo chef col cappello bianco come un rabbino, anatra combustibile. Cavolo ricciolino alla Duchesse de Parma. Tanto vale scriverlo sulla lista delle vivande, così si sa quel che si è mangiato. Troppe spezie rovinano il brodo. Lo so ben io. Ci ficcan dentro i dadi Edward. Oche rincretinite a forza di ingozzarle per loro. Aragoste bollite vive. Trendite un po' di ptarmigan. Non mi dispiacerebbe di fare il cameriere in un albergo alla moda. Mance, abito da sera, signore seminude. Posso tentarla a prendere un altro filetto di sogliola, Miss de Perbac? Sì, dia Perbac, e gliela die Perbac. Un nome ugonotto, credo. Mi ricordo che una certa Miss de Perbac abitava a Killiney, du de là, francese. Comunque è lo stesso pesce. Forse il vecchio Mickey Hallon di Moore Street gli cavò le budella per far quattrini a tutto spiano, il dito nelle branchie del pesce. Non sa scrivere il suo nome su un assegno. Si direbbe che stia dipingendo un paesaggio con quella bocca torta. Michele, A-H-H, ignorante come una scarpa, è un gruzzolo di 50.000 sterline. Appiccicate al vetro due mosche ronzavano, appiccicate. Il vino fulgido sul palato indugiava, inghiottito. Pigiare nel tino grappoli di borgogna. Il calore del sole, ecco che cos'è. È come una carezza segreta che mi risveglia ricordi. Accarezzati i suoi sensi aspersi ricordavano. Nascosti sotto le felci selvatiche a Oz, sotto di noi baia, cielo addormentato. Non un suono. Il cielo. La baia violacea alla punta del leone, verde ad Ramlik, verde giallo verso Sutton. Campi sottomarini, linee marrone chiaro tra l'erba, città sepolte. La mia giacca faceva da guanciale ai suoi capelli, forfecchie tra i cespi d'erica, la mia mano sotto la sua nuca. Mi scompiglierei tutta. Oh, meraviglia! Fresca, morbida d'aromi, la sua mano mi toccava, accarezzava. I suoi occhi su di me non si volgevano altrove. Rapito su di lei giacqui, le labbra piene, tutte aperte. Le baciai la bocca. Yam. Dolcemente mi fece passare in bocca il biscotto all'anice caldo e masticato. Polpa nauseosa biascicata dalla sua bocca, dolce e acida di saliva. Gioia. La mangiai. Gioia. Giovane vita, le sue labbra che mi diede facendo boccuccia, labbra morbide, calde, appiccicose, gommo gelatinose. Fiori erano i suoi occhi, prendimi, occhi vogliosi. Caddero sassolini, giaceva immobile. Una capra, nessuno, su tra i rododendri di Ben Oth, una capra andava con passo sicuro, seminando uvetta. Dietro lo schermo delle felci rideva in un caldo abbraccio. Pazzamente giacevo su di lei, la baciavo, occhi, le labbra, il collo teso, pulsante, i seni femminei pieni nella sua blusetta di lanina, i grossi capezzoli eretti. Le davo delle calde linguate, mi baciava, ero baciato, tutta concedendosi, mi scarmigliava i capelli, baciata, mi baciava. Io, e io ora. Appiccicate, le mosche ronzavano. Con gli occhi abbassati seguiva la venatura silenziosa del banco di quercia. Bellezza, s'incurva. Le curve sono la bellezza. Dei formose, Venere, Giunone, curve che il mondo ammira. Si vedono al museo della biblioteca, erette nel salone circolare, ignude dei. Aiuta la digestione. Non gliene importa di chi guarda. Tutti a vedere, mai aprir bocca, voglio dire, con gente come Flynn. E se avesse fatto Pigmalione Galatea, che avrebbe detto per prima cosa? Mortale, ti avrebbe messo a posto, trincando nettare a mensa con gli dèi, piatti d'oro, tutto ambrosia. Non come quelle nostre colazioni a prezzo fisso, lesso, carote e rape, una bottiglia di Alsop. Nettare, immaginati di bere elettricità. Cibo degli dèi, belle forme di donne scolpite giunoniche, immortali e adorabili. E noi a ficcare il cibo in un buco e fuori di dietro. Cibo, chilo, sangue, sterco, terra, cibo. Bisogna nutrirlo come si carica una locomotiva. Non hanno mai guardato. Guarderò oggi. Il guardasala non vedrà. Chinarsi, lasciar cascare qualcosa, vedere se lei. Goccia a goccia un silenzioso messaggio dalla vescica di andare a fare, non fare lì, fare. Uomo è pronto, vuotò il bicchiere fino alla feccia e si mosse. Si davano anche agli uomini, virilmente conscio. Si giacevano con amanti terreni. Un garzone la godé tutto dentro. Quando lo scricchiolio delle scarpe fu cessato, Davy Byrne disse alzando gli occhi dal libro: «Ma che cosa fa? Non è nel ramo assicurazioni?» «È uscito da un pezzo. disse Nosey Flynn. Fa il piazzista di pubblicità per il Freeman. Lo conosco bene di vista, disse David Byrne. Qualche dispiacere? Dispiacere? Disse Nosey Flynn. Che sappia io no. Perché? Ho visto che era in lutto. Davvero? Disse Nosey Flynn. Ma sì, perbacco. Gli ho chiesto se stavano tutti bene a casa. Ha ragione, per Dio, era proprio in lutto. Non ne parlo mai per primo, disse umanamente Davy Byrne, se vedo che uno ha dispiaceri del genere. Non si fa che ravvivargli la piaga. Comunque non è la moglie, disse Nosey Flynn. L'ho incontrato ier'l'altro che usciva da quella latteria irlandese che la moglie di John Wise Nolan ha in Henry Street, con un vaso di panna in mano che portava a casa alla dolce metà. Lei si nutre bene, dico io. Quaglia allo spiedo. E lavora per il Freeman? Disse David Byrne. Nosey Flynn increspò le labbra. Non è con gli annunci che compra la panna alla moglie. Ci può contare. E allora? Chiese David Byrne abbandonando il libro. Nosey Flynn accennò in aria a qualche rapido gesto di prestigiatore. Strizzò l'occhio. È nella società, disse. Ma cosa mi dice? Fece David Byrne. E come? Disse Nosey Flynn. Ordine antico, libero ed accettato. Luce, vita e amore, per Dio. Gli danno una mano. Me l'ha detto un... non starò a dire chi. Davvero? Oh, è una bella associazione, disse Nosey Flynn. Ti sono vicini quando te la passi male. Conosco uno che cercava di entrarci, ma son maledettamente chiusi. Per Dio, han fatto bene a non volerci le donne. Davy Byrne annuì, sorrise, sbadigliò tutto in una volta. Ci fu una donna, disse Nosey Flynn, che si nascose nella cassa ad una pendola per vedere cosa almanaccano. Ma porca mattina, se non la fiutarono e le fecero prestar giuramento di maestro massone su due piedi, era una Saint-Léger di Donerel. Davy Byrne, sazio del suo sbadiglio, disse con occhi lacrimacuosi: Davvero? È un uomo per bene e non dà noia a nessuno. L'ho visto spesso qui e mai una volta oltre il segno. Lei capisce? Non lo farebbe ubriacare neanche Dio onnipotente, disse fermamente Nosey Flynn. Se la squaglia quando l'aria comincia a scottare. Non l'ho visto guardare l'orologio. Ah, lei non c'era. Se gli chiedi di bere un goccio, la prima cosa che fai è di tirar fuori l'orologio e vedere che cosa deve sorbire. Giuro a Dio che fa così. Ce n'è di gente del genere, disse Davy Byrne. Ci si può fidare di lui, direi. Non è cattivo, disse Nosey Flynn, tirando su col naso. È risaputo che ha messo anche mano al portafoglio per aiutare un disgraziato. Quel che è giusto. Bloom ha delle buone qualità. C'è una cosa però che non farà mai. La sua mano scarabocchiò una firma a secco vicino al grog. Lo so, disse Davy Byrne. Mai nero su bianco, disse Nosey Flynn. Patty Leonard e Bantam Lyons entrarono. Tom Rochford dietro, con una mano che lisciava il panciotto rossiccio. Giorno, Mr. Byrne. Giorno, signori. Si fermarono al banco. Chi paga? Chiese Paddy Leonard. Io son pronto, rispose Nosey Flynn. Allora che si prende? Chiese Paddy Leonard. Io ho una gazzosa, disse Bantam Lyons. Che? Esclamò Paddy Leonard. Da quando in qua, per amor del cielo? E per te, Tom? E le fognature come stanno? Chiese Nosey Flynn centellinando. Come risposta, Tom Rochford si appoggiò la mano al petto e ruttò. Le dispiace darmi un bicchiere d'acqua fresca, Mr. Byrne, disse. Ma subito, signore. Paddy Leonard sogguardò i compagni di bevute. Corpo di Bacco Bacchino, disse. Guarda un po' a chi pago da bere. Acqua fredda e gazzosa. Due tipi che succhierebbero whisky da una ferita. Lui ha un fottuto di cavallo nella manica per la Coppa d'Oro, a colpo sicuro. Zinfandel, vero? Chiese Nosey Flynn. Tom Rochford versò una polvere da una cartina nell'acqua che gli avevano messo davanti. Questa dannata dispepsia, disse prima di bere. Il bicarbonato è ottimo, disse David Byrne. Tom Rochford annuì e beve. E Zinfandel? Non dir nulla, ammiccò Bantam Lyons. Ci butterò sopra 5 scellini per conto mio. Diccelo se sei un uomo e va a farti friggere, disse Buddy Leonard. Chi te l'ha suggerito? Mr. Bloom, uscendo, alzò 3 dita a mo' di saluto. Salve, disse Nosey Flynn. Gli altri si voltarono. Eccolo qua, quello che me l'ha suggerito, sussurrò Bantam Lyons. Puff, disse Buddy Leonard con disprezzo. Mr. Burns, signor mio, dopo prendiamo 2 Jameson piccoli e una gazzosina, aggiunse cortesemente Davy Byrne. Per l'appunto, disse Paddy Leonard, un po' pappatoio per l'infante.